vorrei soprattutto ringraziare gli operatori del settore, i viticoltori, tutti gli imprenditori del comparto, perché a loro dobbiamo veramente un grazie. Perché dobbiamo ringraziarli? Dobbiamo ringraziarli perché loro ci hanno saputo e ci sanno indicare come, pur nelle condizioni più difficili, il Paese può uscire positivamente da una fase di crisi. Se noi guardiamo indietro, gli ultimi 5 anni dell'economia mondiale sono stati terribili, e sono stati terribili anche per il nostro Paese. Siamo passati da una crisi fortissima con una caduta dei consumi e della domanda tra il 2008 e il 2009, poi a una ripresa molto timida e poi ancora a una fase fortemente negativa caratterizzata dal problema del debito sovrano e da tutto quello che abbiamo vissuto e che ben conoscete negli ultimi 12 mesi. Ebbene, in questo quinquennio oscuro il settore esce più forte e più vivo di prima. E questo vuol dire qualcosa, vuol dire che i nostri imprenditori hanno saputo lavorare, hanno saputo trovare il modo giusto di rapportarsi al mercato, hanno saputo trovare gli equilibri, le formule al proprio interno per uscire positivamente anche da una situazione difficile. Quali sono queste formule? Qual è l'elemento vincente di questo comparto? Beh, io direi che è difficile riassumere una realtà che è molto variegata. Però se dovessi tentare una sintesi, direi che nessun paese produttore come noi è in grado di offrire una diversificazione di prodotto così completa e un rapporto identitario in termini di offerta che ha un retroterra nel territorio così radicato e differenziato per l'appunto. Noi siamo presenti in tutte i segmenti di mercato con dei prodotti che in ogni segmento hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo e questo vuol dire che i nostri imprenditori sanno lavorare e ce lo dimostrano e danno anche un'indicazione a tutto il resto del comparto agroalimentare che purtroppo sta in una situazione non altrettanto positiva. E l'indicazione è che si può uscire dalla crisi, si può uscire in avanti lavorando sulla qualità, sul rapporto col territorio, sulla differenziazione, sull'identità. Naturalmente non tutto è perfetto, non tutto è rose e fiori, anzi ci sono molti problemi sul tappeto. Oggi lo sappiamo, l'export va benissimo, la nostra presenza sui mercati mondiali è crescente e indica la vitalità che vi dicevo, ma abbiamo anche una serie di problemi che non dobbiamo trascurare. Intanto il mercato interno continua ad accennare a sintomi di debolezza, la curva dei consumi scende ormai da una trentina d'anni ed era normale ed ovvio che scendesse, nessuno di noi può oggi immaginare che si possa consumare nella realtà della nostra società attuale quel livello di prodotto, quella quantità di vino pro capite che si consumava 30 anni fa, sarebbe folle solo pensarlo. Però è chiaro che l'accentuazione ulteriore di una linea di tendenza negativa può alla lunga mettere in difficoltà il comparto, perché non tutto possiamo immaginare che possa essere sempre recuperato in termini di export, occorre anche arrivare a uno zoccolo duro, arrivare a un consolidamento del livello del mercato interno, del consumo interno. E in questo è molto importante il modo con cui comunichiamo, il modo con cui comunicheremo nei prossimi anni. Il vino è stato demonizzato negli ultimi tempi e questo va detto. Demonizzato anche in modo un po' superficiale, anche con tutta una serie di messaggi, non voglio dire qualunquistici, ma insomma comunque non nitidi intellettualmente né tantomeno scientifici.